Perdonate la mia foga, che ha ragioni profonde nella speranza per il futuro. Questo è un argomento fondamentale per me. Io so, almeno in parte, cosa voglio. So anche, e molto chiaramente, cosa temo. Estesa, aperta, fluida e globale.